Madonna. Chi ti ha dato il mio numero? Lo Zodi 105. Fa per la carità. Fa per la carità, tu signore. Allora vai avanti. Super Brasaula, sì. Brutto, porco bastardo. Brasaula. Internisco alla Madonna. Io ho detto di no. Super Brasaula. Ho detto Super Brasaula. I miei figli stanno ridendo. It's a 105 Zoo, only for you.